Radio 24 Reportage. Il grande sogno egiziano, una sfida anche per l'Italia, di Livia Zancaner. Quella che avete appena sentito è l'accesa discussione avvenuta pochi giorni fa tra una giornalista egiziana e un ministro del governo di Al-Sisi sul possibile rinvio delle elezioni legislative previste per fine marzo. La gente è contrariata, si allungano i tempi per il processo di democratizzazione del paese dopo la doppia rivoluzione del 2011-2013 e l'ascesa al potere di Abdel Fattah Al-Sisi, il generale che nel 2013 con un colpo di Stato ha destituito la presidenza di Mohamed Morsi, sostenuto dai fratelli musulmani, diventando poi presidente a giugno 2014. Da quel momento, racconta la popolazione, sono aumentati i piccoli attentati. Ordigni rudimentali vengono fatti esplodere ogni giorno nei vari quartieri, mentre il nord del Sinai è assediato dagli affiliati dell'ISIS. Gli egiziani però ci tengono a far sapere che loro è un paese sicuro e che si tratta solo di episodi isolati. L'Egitto è così, il Cairo è così, la città dei contrasti, del tutto e del suo contrario, spiega la gente del posto. E così, mentre cerca una stabilizzazione al suo interno, sia politica sia economica, l'Egitto si pone come regione chiave per la lotta contro il terrorismo e l'estremismo, soprattutto nella risoluzione della crisi libica, e per farlo cerca il supporto degli altri paesi, Italia in primis. L'Italia in prima linea perché questa cosa della Libia sia il top dell'agenda, diciamo, politica internazionale, cosa che Renzi sta facendo da un anno insieme a Sisi, perché loro sono gli unici due che hanno capito per tempo che era una situazione non trascurabile, cioè non relativa a un piccolo paese, ma era una situazione che rischiava di innescare degli effetti a cascata sul Medio Oriente. Dall'altro lato, l'Italia è assolutamente convinta, e su questo sta lavorando il ministro Gentiloni, che l'Egitto è il key player per risolvere la crisi libica, insieme anche all'Algeria, che ha un ruolo importante. Così il viceministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda ha raccontato al Cairo lunedì scorso, appena dopo l'incontro con il presidente egiziano Al-Sisi. I due, insieme a una ristretta delegazione italiana, hanno parlato del contesto politico, ma soprattutto del maxi piano di investimento da 150 miliardi di dollari che l'Egitto presenterà a marzo a Sharm el Sheikh. Oltre 100 progetti allo studio che potrebbero coinvolgere anche le imprese italiane, non solo quelle di grosse dimensioni, magari già presenti in loco, ma anche quelle piccole e medie. Proprio per valutare le possibili opportunità, al Cairo con il viceministro c'erano le nostre aziende, come ci racconta l'ambasciatore italiano Maurizio Massari. L'obiettivo principale era portare qui le nostre imprese, 80 imprese, tre settimane prima della conferenza di Sharm el-Sheikh, per farle anche familiarizzare con i progetti di sviluppo che verranno presentati a Sharm. È un segnale di fiducia, di apertura all'Egitto molto importante, che credo testimoni il forte legame che c'è tra i due paesi. Quindi questa missione è la dimostrazione che l'Egitto non è soltanto per noi, certamente come lo è, un pilastro della stabilità regionale, della sicurezza regionale, ma è anche un'opportunità economica, un'opportunità di investimento, e noi crediamo che questo processo di stabilizzazione avviato da Sisi con la roadmap possa anche portare a maggiori occasioni di investimento, di business per le nostre imprese. Un'opportunità economica importante, visto che secondo i numeri forniti da SACE l'export del nostro paese verso l'Egitto è di 2,8 miliardi di euro, ma potrebbe superare i 4 miliardi entro il 2019. Le nostre aziende sono pronte a cogliere queste opportunità, sottolinea Riccardo Monti, presidente dell'ICE, l'agenzia che si occupa dello sviluppo delle imprese italiane all'estero. L'Italia è uno dei maggiori investitori, è il primo paese come destinazione di esportazioni egiziane. Il rapporto dei due paesi sono molto forti, ci stanno incoraggiando in maniera sistematica a partecipare alle loro gare. Stiamo lavorando per potenziare il supporto finanziario ai vari progetti e vari tender. A livello di settori, certamente l'energia è la priorità. Il paese ha un grandissimo bisogno di energia, deve generare un'enorme capacità di produzione energetica nei prossimi 10 anni, e le aziende italiane sono decisamente in prima fila in questo progetto. E all'interno del contesto politico e delle varie crisi che ci sono in questo periodo, come si collocano questi progetti? Il presidente Al-Sisi ha detto una cosa molto chiara, ha detto che gli investimenti e lo sviluppo sono il primo fattore di stabilizzazione sociale di un paese, quindi ovviamente sviluppo economico e pace e prosperità vanno braccio a braccio. E al Cairo e in tutto l'Egitto servono investimenti nei settori più disparati, oltre all'energia, infrastrutture, meccanica, petrolchimica, agricoltura, ma anche la pesca. Il governo egiziano sarebbe pronto a ordinare all'Italia centinaia di pescherecci, come ci racconta Licia Mattioli, presidente del gruppo internazionalizzazione di Confindustria, anche lei in visita al Cairo. Ci sono tanti progetti diversi. Un progetto molto interessante è anche quello legato alle imbarcazioni per la pesca, che è piaciuto moltissimo al presidente Al-Sisi, che ha detto che questo progetto potrebbe diventare 3 volte più importante se le premesse sono quelle che lui ha visto. Quindi direi che anche sotto questo aspetto c'è una significativa possibilità concreta di lavoro. Sono pescherecci italiani che fornirebbe non solo, diciamo, le barche, ma fornirebbe anche la formazione per i pescatori, ma oltre per questo per la coltivazione dei pesci nel lago. Quindi tutto il farm, quello che viene definito farm. Quindi è un progetto molto interessante. E altri progetti? No, sono tutti legati, su questi grossi progetti legati alle infrastrutture, parliamo anche di ferrovie che devono fare alta velocità e rifare le lineette ferroviarie, però sono in fase d'opera. Vorremmo firmarli a breve, ma non sappiamo se di qui a 10 giorni sarà possibile. Ovviamente le imprese che decidono di investire in loco hanno bisogno di finanziamenti. Come dico sempre, le banche seguono i loro clienti. Noi non generiamo di per sé nuovo business, nuove iniziative. Noi siamo lì per supportare i nostri clienti, per finanziarli. Siamo qui perché appunto pensiamo che ci sia un aumento dell'interscambio Egitto-Italia, che ci siano nuove iniziative di investimento come sono state menzionate, canali di Suez e quant'altro, sono pieni di progetti. E quindi dove ci sono progetti e c'è business, in genere c'è bisogno di soldi, e quindi è lì dove entriamo noi. Guido Rosa, membro del comitato di presidenza dell'ABI, ci ha spiegato che le banche italiane hanno stanziato oltre 1,2 miliardi di euro per le imprese che scelgono di lavorare in Egitto. Fino ad oggi ne è stato impiegato solo il 30%. Un'impresa che ancora al Cairo non c'è ma mostra interesse, la Pizzarotti di Parma. Oltre 100 anni di storia nel settore delle costruzioni e un fatturato da 1,2 miliardi di euro. Giorgio Cassina, amministratore delegato, ci racconta i loro obiettivi. Per noi può essere un'area interessante perché abbiamo visto in anteprima il piano di progetti, il piano di investimenti del governo e del presidente Sisi, che è molto determinato a sviluppare il paese, ha parlato di una crescita annuale del 7,5% del paese, hanno un programma massiccio di investimenti al canale di Suez, la metropolitana del Cairo, un piano di rinnovamento delle ferrovie, rinnovamento ed estensione della rete stradale. E per voi quale aspetto può essere interessante? Tutti i grossi progetti di infrastruttura possono essere interessanti e quindi stiamo guardando in maniera attenta al piano di sviluppo per cercare di capire se e come potremo svilupparci nell'area, anche grazie al lavoro di supporto che sta dando il governo italiano. Il nostro gruppo è in forte espansione verso l'estero, abbiamo una quota estera del 25% sul fatturato del 2014 che pari a circa 1 miliardo e 200 milioni di euro. Contiamo nel 2016 di poter arrivare al 50% di percentuale di fatturato all'estero e quindi siamo molto interessati a sviluppare i paesi emergenti. Il Cairo quindi può essere un'opportunità? Il Cairo può essere un'opportunità, senz'altro. Ora arriviamo al progetto dei progetti, quello che loro stessi chiamano il grande sogno egiziano, il nuovo canale di Suez. Al momento attraverso il canale passano quasi 50 navi container al giorno, 17.000 all'anno per 5 miliardi di dollari di ricavi solo nel 2014. Bene, d'agosto gli egiziani stanno costruendo un altro canale parallelo, una sorta di grossa autostrada a 2 corsie per 72 chilometri totali. Le imbarcazioni potranno così navigare da nord a sud, da Port Said a Suez e viceversa, senza alternarsi e perdere ore e ore di viaggio. Risultato: 100 navi al giorno e ricavi in crescita esponenziale. Al-Sisi vuole che il progetto sia chiuso ad agosto, quindi solo un anno contro i 3 indicati da chi ha progettato i lavori. Dopodiché si passerà alla fase 2, creare intorno al canale un grande polo industriale, una nuova città per aumentare lavoro e occupazione. Mentre la prima fase era aperta solo agli egiziani, tanto che il popolo ha voluto tirar fuori 8,2 miliardi di dollari di tasca propria, ora la partita si apre anche per gli investimenti dall'estero. This project Questo progetto è un'idea egiziana, è una sfida e considero l'Italia un partner, un amico. Queste le parole di Moad Mammish, a capo dell'autorità del canale di Suez. Alle imprese italiane non resta quindi che accettare l'invito. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.